New Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Buone notizie per le piccole e medie imprese italiane. Il Fondo Europeo per gli investimenti ha firmato un accordo con 6 istituzioni finanziarie per fornire 360 milioni di euro in garanzie a piccole e medie imprese nel nord e nel centro Italia nei prossimi 3 anni. Il fondo fornirà una controgaranzia che consentirà ad Artigian Credito Toscano e a 5 Confidi di dare a 10.000 piccole e medie imprese italiane accesso a finanziamenti che altrimenti non avrebbero avuto. Questa transazione è stata effettuata nell'ambito del programma COSME della Commissione europea e beneficia del sostegno dell'EFSI, il cuore del piano Juncker per gli investimenti. Ne parliamo con l'europarlamentare Massimiliano Salini. Una boccata di ossigeno per le piccole e medie imprese italiane? Assolutamente sì, una boccata di ossigeno che è iniziata già nel corso del 2016 con un piano Juncker che ha destinato un'enorme quantità di risorse, decine di miliardi di euro, alle imprese italiane attraverso le banche del nostro territorio. Purtroppo spesso gli italiani e anche i piccoli imprenditori non sanno che quei soldi che la banca gli ha dato, quelle garanzie che la banca gli ha dato, arrivano dalla Banca Europea degli Investimenti e, nel caso specifico, dal piano Juncker. Basterà il piano per gli investimenti Juncker a far ripartire l'economia in Italia? Non basta, perché l'economia riparte quando il sistema paese decide di investire sulla cultura d'impresa, sul valore aggiunto generato da chi intraprende e sulla propensione al rischio di una fetta così importante della popolazione, come sicuramente vediamo nel nord Italia, ma non solo nel nord Italia. Il secondo fattore strutturale che un po' manca in Italia è una reale decisione di investire sulla educazione dei giovani, affinché all'interno del loro percorso formativo ci sia la cultura d'impresa, ci sia la decisione che investire, di intraprendere, è una buona cosa per la propria vita. Che cosa chiedono le imprese italiane all'Europa? Chiedono con un po' di noia che lo Stato faccia qualche passo indietro, e quindi chiedono che a maggior ragione l'Europa non sia un super Stato che si aggiunge ad uno Stato già abbastanza assillante, come ognuno dei 28 paesi membri lamenta, perché non è una prerogativa dell'Italia, quella della burocrazia. In secondo luogo, gli imprenditori, soprattutto quelli piccoli, chiedono all'Europa che tutti possano lavorare e competere ad armi pari. Lo shopping fiscale che ad esempio alcuni possono permettersi il lusso di fare andando a cercare ambiti dove non pagare tasse, magari perché la loro dimensione d'azienda gli consente di poter pagare grandi consulenze legali per cercare il paradiso qua e là, ecco, queste cose che i piccoli imprenditori non possono fare sono una minaccia alla libertà d'impresa e al loro sviluppo. Ecco, ad esempio, maggiore equità da questo punto di vista sarebbe sicuramente la benvenuta. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.